E già pronto per Industry 4.0 su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Oh, God, I love you so high. I'll make you proud. In campo per un'intesa, telefonata con Renzi, centro-sinistra largo e Pisapia lo vuole garante dell'alleanza. Il Corriere della Sera. Il PD allarga l'alleanza a sinistra. Prodi media, pressing su Grasso. Lungo incontro tra Renzi e il professore. La Repubblica. Su questa cosa andiamo avanti, leggiamo ancora. Pisapia che ha parlato con Prodi. Basta. Buongiorno Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buona domenica. Ma come si fa a titolare su queste cose? Ma non titolano tutti così, perché la stampa titola serve una super procura per indagare sulle banche, quindi va su tutt'altri temi e poi ha le slot machine, che è il tuo tema preferito, sempre sulla prima pagina della stampa con tanto di foto. Il Piemonte sfida il governo, ma sono sicuro che dopo ne parlerai tu. Questa è una bellissima storia. Della verità, la notizia era l'incontro tra il governo e i sindacati sulla questione delle pensioni, ed è un pezzo dei titoli principali dei giornali di oggi, ed è questo, per esempio, pensioni, sempre sul Corriere: nessun accordo governo sindacati, Camusso, siamo pronti allo sciopero. Anche Repubblica se ne occupa, pensioni, Camusso attacca il governo, è un titolo importante anche per il Sole 24 Ore, che scrive così: pensioni, niente scatto anche per le anticipate, fondo per l'APE sociale. E appunto la notizia è che c'è stata una proposta del governo accolta dalla CISL, non colta dalla CGIL, che annuncia comunque una mobilitazione che in realtà era già stata annunciata. Anche qua sono un po' i soliti riti della politica e del sindacato, però possiamo anche andare a leggere nel dettaglio, tra poco lo faremo, e vediamo sulle pensioni che cosa ci aspetta. Invece, tema sempre importante questo. Invece sul Fatto Quotidiano tutt'altro, parla di l'arma e le spedizioni punitive, crepiamoli e sciolti nell'acido, sono dei virgolettati di intercettazione dell'inchiesta sarda su Del 7 & Company, così dice il Fatto Quotidiano, che Roma vuole archiviare. Credo che sarà in realtà una notizione dalla quale si occuperanno presto anche gli altri giornali, come spesso accade. Il Fatto Quotidiano fa da apripista. Il Giornale invece, si occupa della morte di Totò Riina, ancora con la questione dei familiari che hanno criticato la presenza dei giornalisti davanti all'ospedale, a sezione detenuti dell'ospedale di Parma. Riina ci denuncia, l'ultima minaccia, la famiglia del boss chiede rispetto e vuole querelare la stampa, così è il titolo principale, e in effetti questa è la notizia. Poi ma fra tutti i giornali ha deciso di querelare il Giornale? Vuol dire che per una volta, perché ieri no, perché l'abbiamo dato ieri il titolo, se non sbaglio, parte di Riina, per il una Giornale volta. Il Giornale, se non sbaglio, ieri titolava un mafioso di meno, sì, giusto? Sì, sì. E poi invece Libero che sceglie un'altra notizia: parroci contro vescovi, l'immigrazione fa litigare anche la Chiesa. A Bologna la Curia lancia l'iniziativa Ospita a pranzo uno straniero e la affida al nipote di Prodi, che è un parroco. Solo 20 preti su 90 però aderiscono al progetto. Cioè gli altri 70 hanno mangiato da soli? Sì, non hanno aggiunto il famoso posto a tavola. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra un po' cominceremo con i nostri approfondimenti, parleremo di whistleblowing, notizia della settimana, l'approvazione definitiva, la possibilità, lo sapete, di fare denuncia in forma anonima. Sempre con tua grande gioia, con questa parola così facile anche da pronunciare, che solamente nel momento in cui cerchi di pronunciarla ti beccano e tu sei rovinato, perché in realtà il problema è esattamente, si parla di delazione, esatto. Quindi il problema è se dopo ci sono ritorsioni nel momento che tu dipendente decidi di denunciare magari un tuo superiore addirittura dentro in un ente pubblico. Chissà perché dobbiamo farci del male così con l'inglese, ma insomma questo è un altro problema. Hai ragione, su whistleblowing ti do ragione, Ale. E poi, cari ascoltatori, la Repubblica, Ancelotti, questa è la notizia che non volevamo vedere. Ma non lo so, vai, lo so. Dai. Ancelotti, il gran rifiuto nazionale, no grazie. Ha parlato il procuratore, credo, di Ancelotti ad una radio concorrente, a Radio DJ, possiamo dirlo tranquillamente, e ha smentito un interessamento di Ancelotti, ormai lo sanno tutti perché è uscito da tutte le parti alla nazionale. Che mi chiedo, siccome il Fatto Quotidiano invece titola Ancelotti dice picche a Tavecchio, sì, quindi potrebbe anche essere che sia se un no si lava a Tavecchio, Tavecchio. Perché sempre il Fatto Quotidiano dice picca Tavecchio vicino a mollare la poltrona. Ovviamente non può essere Ancelotti vicino a mollare la poltrona, ma è Tavecchio. Quindi è interessante che forse addirittura Ancelotti, perché Ancelotti ci piacerebbe come allenatore della nazionale, possiamo dirlo. Però noi oggi vogliamo parlare di calcio con gli ascoltatori, contro molto loro volentieri. Fatti. Oggi il fact checking lo facciamo così: vi chiediamo di raccontarci voi che la domenica fate chilometri e chilometri la domenica mattina per andare nei campi terrosi, sudate, poi fate la doccia in spogliatoi improbabili. Voi che insomma praticate il calcio a livello dilettantistico, il calcio giovanile, allenatori, dirigenti, giocatori, qual è il male del calcio italiano? Anche spettatori, va bene tutto. Qual è il vero male del calcio italiano? Mancano i vivai, c'è poco fair play, c'è troppa competitività e poca sportività, ci sono troppi stranieri nelle giovanili. 800 24 00 24, raccontatecelo voi. Fammi aggiungere solamente una cosa sulla questione dei troppi stranieri. Come ho scritto sulla mia pagina Facebook, si può assolutamente discutere se in Italia ci siano troppi stranieri nei vivai, ma questo non c'entra niente con i migranti. Quel tweet di Salvini che diceva troppi stranieri in Italia, quindi stop invasione, dopo che eravamo stati eliminati dal mondiale, o meglio non possiamo nemmeno andare a giocarci i mondiali, è assolutamente una boiata colossale, perché nessuno di quelli che scende dai barconi poi va a giocare in Serie A e toglie posti ai nostri ragazzi, come li chiamano. Quindi stiamo parlando di due cose diverse. Forse un conto sono gli stranieri, un conto è questa millantata invasione. Parlava dell'invasione della Svezia, forse. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il liceo, la cricca e le famiglie divise. Il caso del Virgilio di Roma ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera. La buona notizia in questo caso, se vogliamo trovarcela, è che la preside ha sollevato un gran polverone, insomma ha alzato il velo su questa situazione difficile che c'è al Virgilio di Roma, forse c'era anche in altre scuole, ma insomma qua si parla di una cricca dei genitori della Roma Bene, i cui figli tengono un po' in mano, condizionando, intimidendo, minacciando insomma tanti altri ragazzi. Doppia pagina con interviste, c'è un genitore che parla in forma anonima, un gruppo violento tiene in ostaggio tutti, c'è un clima di paura addirittura. Poi dice se ci sia un clima mafioso oppure no, non lo so, ma certo che noi genitori abbiamo un po' di paura. Quando ti dicono che sono state fatte scoppiare le bombe carta in cortile, pensiamo subito che possa succedere qualcosa di brutto. Insomma, è una brutta storia, e appunto però la preside l'ha, ha sollevato il velo. Poi c'è anche l'intervista Peppino Calderola, 71 anni, padre di un 15enne che frequenta il Virgilio, che dice parlare degli studenti come fossero criminali è una diffamazione. Un altro punto di vista su questa faccenda. Invece vi aggiorno su quello che dice Il Giorno, scusate per il bisticcio, visto che ne avevo già parlato ieri del ragazzino malato di PlayStation che doveva essere tolto alla famiglia. Prosegue questa vicenda: troppo PlayStation, tolto alla madre. Deve andare al Tribunale dei Minori. Per i minori ha deciso che deve andare in comunità per iniziare un percorso di disintossicazione. Ovviamente la madre è esterrefatta da tutto ciò, dice nessuno mi ha aiutata e chiede che suo figlio resti con lei. Sempre su questa pagina però, visto che è un tema di cui parliamo spesso, i compiti a casa, sistema che va superato. A parlare questa volta è la ministra Valeria Fedeli, che dice bisogna fare più attività a scuola e quindi forse meno compiti, visto che noi spesso ci occupiamo di basta compiti e no compiti. Più attività sportiva invece. E qua volete che vi legga l'elenco delle categorie dei lavori gravosi che sono esentati dall'aumento dell'età pensionabile? No, non ve la leggo tutte perché sono tante, però ci sono asili nido, materne, maestre, chiaramente, camionisti, muratori, facchini, badanti, addetti alla raccolta rifiuti, addetti alle pulizie, conciatori di pelli, stampatori a caldo, ma anche braccianti, agricoli, operai, siderurgici. C'è l'intervista, qui siamo sul Corriere, al segretario della CGIL Camusso, che però dice dal governo niente. Perché? Perché mancherebbero i fondi per poter realizzare queste promesse. Il punto di vista diverso invece della segretaria della CISL Furlan, intervistata dalla Stampa, che dice: Camusso sbaglia, abbiamo ottenuto più di quanto chiedevamo un anno fa. E quindi la CISL coglie queste proposte che arrivano dal governo. Notizia da urlo, vai! Allora, la notizia è questa, è incredibile perché c'è questa maestra di Filicudi che insegna a Siena, ha chiesto di poter rientrare nella sua zona, perché? Perché in realtà nell'isola a fianco, ad Alicudi, manca proprio l'insegnante delle scuole elementari. E quindi lei potrebbe andargli a insegnare. Però per queste burocratiche pare che non si possa fare. Perché le graduatorie sono quelle, eccetera, eccetera. Così ad Alicudi non hanno maestra. E quando ce ne sarebbe una bravissima di Filicudi, esatto. E invece quella di Filicudi è a Siena. Per andare a Siena, fantastico. Temo un treno. Allora, visto che è domenica e visto che parliamo di scuola, è il momento della scuola buona di Alex Corlazzoli, che ogni domenica, quando la scuola è chiusa, è il momento giusto per fare un po' di ripasso su quello che succede nelle nostre scuole. Ciao Alessio, ciao Carlo, la scuola buona di questa settimana la incontriamo a Roma, alla scuola primaria Perlasca, dove all'Istituto Comprensivo Gramsci fanno esattamente scuola alla radio, sì, proprio la radio, interviste impossibili, microstorie sonore inventate, rubriche su animali veri immaginate, interviste in classe fuori in mezzo al quartiere, e poi ancora oroscopi scolastici, lezioni in classe preparate dai bambini, insomma una vera e propria radio che si chiama Radio Freccia Azzurra, che potete incontrare sul blog radiofrecciazzurra.blogspot.it. Sono inventati persino questo per fare in modo che quello che diceva Rodari nella grammatica della fantasia diventi realtà. Una scuola fatta attraverso le voci dei bambini e anche dei maestri e di Matteo Frasca, che è il referente pedagogico di questo progetto. Bravo il Corlazzoli, bravo Alex. Allora, ritorniamo sui giornali per quella questione, Carlo, che dicevi tu prima delle slot sulla prima pagina della Stampa. La notizia è che da domani scattano i nuovi divieti della regione Piemonte. Da 7 su 10, 7 sale slot, 7 macchinette su 10 sono a rischio, potrebbero chiudere, potrebbero essere staccate, no? E questo sta creando una tensione forte col governo. Il sottosegretario Baretta dice chiaramente che la regione danneggia l'erario, no al proibizionismo, pronti a discutere ma si rispetti l'intesa nazionale, che è di manica più larga per le slot. Gli amministratori locali, questa è la notizia incredibile, potrebbero dover rispondere delle mancate entrate. sai che sono 10 miliardi di euro all'anno. Ma questa non è una buona notizia, no, quindi loro devono rispondere. Sì, sì. Nel senso che noi siamo per l'eutanasia delle macchinette, giusto? Noi possiamo, esatto. Noi siamo affinché si stacchi la spina alle macchinette. Bravo. Ma sai perché? Perché ci sono 800.000 ludopatici, 1.700.000 persone a rischio e le regioni che hanno la loro competenza è la sanità sono in prima linea. No, ma mi è molto chiaro, però, onestamente, che siano loro a rispondere del mancato introito per l'erario mi sembra un po' sbagliato. Ma sempre sulla stampa, sempre sulla stampa, una buona notizia: dopo mezzo secolo ritrova il fratello adottato negli Stati Uniti. Caramba. Esatto, è una signora Nicoletta che aspettava da 60 anni esatti questo momento, quello in cui avrebbe rivisto Baldovino, il fratello scomparso nel 57 dopo un'adozione di cui nessuno aveva saputo nulla. Adesso pare che dagli Stati Uniti Baldovino tornerà per andare a trovare Nicoletta. Siamo felici, facciamo una carrellata veloce delle 5 migliori buone notizie della settimana. Vai. Sì, perché è passata una settimana e abbiamo raccolto 5 notizie, sono queste. Nel DL Fisco arriva la detrazione per gli alimenti a fini medici e speciali. In pratica si parla soprattutto dei diabetici e di altre malattie congenite, metaboliche, che per la prima volta possono avere le detrazioni per gli alimenti che comprano in farmacia, che costano tantissimo. Giusto, anche i celiaci, infatti. Al quarto posto invece una notizia più divertente, più piccolina: a Budapest è stata inaugurata la statua di Bud Spencer e quindi ne siamo contenti. Perché Bud Spencer, insomma, è un protagonista di questo western all'italiana. In Ungheria non si potevano vedere i western americani e invece quelli lì sì, quindi lui, esatto, in realtà ha passato la cortina di ferro, esatto, per questioni per cui molte cose americane non potevano arrivare e invece sì, in qualche modo questo gigante buono che era un altro tipo di western è stato accettato. È uno dei motivi per cui Bud Spencer è amato in tutto il mondo, ma è amato anche al di là della cortina di ferro. Allora, di quello che era. Domani si decide dell'EMA, dove sarà, molti sperano che sia a Milano. Intanto la notizia che vi segnaliamo di questa settimana è che l'EMA ha certificato il potere delle erbe curative. In primo piano la valeriana come sedativo, ma c'è anche la camomilla, rido perché sembra, però è la verità. Beh, ci mancherebbe altro. Sono studi scientifici, la camomilla anche per il raffreddore, questo l'EMA. Beh, che facciano bene non c'è dubbio. Al secondo posto, parliamo di ostia, ma per una volta non delle elezioni, per la raccolta differenziata arrivano i bidoncini intelligenti. Da febbraio 2018 partirà proprio nel territorio di Ostia la nuova raccolta differenziata porta a porta con tecnologia RFID, ovvero quella con l'identificazione a radiofrequenza, un sistema che permette la tracciabilità dei rifiuti attraverso l'utilizzo di bidoncini intelligenti, cioè che hanno semplicemente un bel microchip che identifica gli utenti, e poi ci sono delle antenne sui mezzi dell'AMA per la lettura e la trasmissione di questi dati in tempo reale. Al primo posto non potevamo non mettere il dato sui musei, la grande crescita dei visitatori nei musei statali italiani 2017, ancora da chiudere, verso un record nei primi 9 mesi, più 9,4% rispetto all'anno scorso, risultati straordinari dalla Reggia di Caserta a Pestum, Pompei, Brera, tutto fantastico, molto bene. Ma cerchiamo. All right, give me five. All right. E questo. E normalmente è il momento di Massimo Temporelli. Però lui non parla perché in realtà oggi è in diretta. No, sì, dal presente. 2017, incredibile. Come 2017? Lo so, Massimo. Ma a dicembre spero almeno. Qualche minuto avanti a voi, quindi se volete posso dirvi delle cose del futuro prossimo. Giusto. Ma sono qua, sono a Milano nel 2017. Lo so perché non ti sentivamo arrivare dal futuro, ti abbiamo chiamato dal presente perché siamo anche questa volta preoccupati per questa notizia. Dunque, l'ONU ha detto che si occuperà, Massimo, della questione dei robot assassini, che sono un rischio, cioè gli automi utilizzati nelle cose peggiori che fa l'uomo, la guerra. Lo so. E che dobbiamo fare? Nel futuro vi dico solo che queste paranoie ce le siamo tolte da un po', e vi dico che invece nel passato ne abbiamo avuto di simili. Vi dico solo una cosa e poi magari parliamo di cose più interessanti, perché secondo me sono stupidate, o meglio, lo sono nella misura in cui l'umano ha in mano la bomba nucleare da 50 anni e dopo aver fatto il danno una volta non lo sta più riutilizzando, quindi non utilizziamo armi letali all'umanità, no? questo l'abbiamo imparato, e la robotica lo sarà, lo è già. I droni potrebbero salire in cielo a Milano e uccidere tutti, ma nessuno lo fa, per vari motivi che sarebbe troppo lungo dire qua. Ma di video so, quando è arrivato il telefono, non una tecnologia complessa, il telefono, quello via filo, le persone avevano paura di ammalarsi parlando con persone infette, di raffreddore. Quindi, no? La tecnologia spaventa mitica questa citazione. La tecnologia spaventa da sé. Certo, tante guerre sono state dichiarate forse anche per telefono, il che non vuol dire che il telefono sia un'invenzione che aumenta il rischio di guerre. Però insomma c'è un po' di preoccupazione. Nonostante questo, perché insomma l'altra volta le ultime volte ci siamo sentiti e la preoccupazione era che i robot ci fregassero il posto di lavoro. Adesso qualcuno dice che potrebbero anche ammazzarci. Tu continui a tenerti sulla linea dell'ottimismo, l'hai scritto anche nel tuo ultimo libro 4.0, fabbriche, professionisti e prodotti della quarta rivoluzione industriale. Quali sono i motivi su cui tu poggi tutto questo ottimismo? Beh, il libro si costruisce, l'ho scritto insieme ai due amici Francesco Lorre e Bernardo Gamucci, e ci siamo guardati alle spalle, abbiamo visto le altre rivoluzioni industriali e abbiamo visto che le stesse domande, le stesse paure che oggi sono presenti nella nostra società, ma anche dentro di noi, devo essere sincero questa volta, anche dentro di me, c'erano anche nelle prime rivoluzioni industriali. E alla fine è inutile dirlo che la qualità della vita, il tempo che passiamo a fare delle cose che ci piacciono, come mangiamo, il numero di anni che viviamo, le malattie che prendiamo, le strade su cui ci muoviamo, i treni, cioè è migliorato tutto, è inutile negarlo. Chi non lo ammette è uno stupido. Ci sono anche delle cose che non vanno perfette. Però mediamente il baricentro dell'umanità sta migliorando, no? Ecco, allora, no, di cose che non vanno perfette ce n'è tantissime in realtà, perché se no rischiamo che gli ascoltatori ti prendano per un invasato. In realtà tu dici di cose che non vanno ce n'è tantissime, ma è indubbio che la vita dell'uomo sia migliorata per questioni oggettive, quindi qualità della vita, aspettativa della vita, malattie, giusto? Sì, ma anche cultura, cioè negli anni 50 come era trattata la donna in Italia, per fare un esempio, perché hanno letto poco tempo fa un articolo, era ridicolo, le donne non votavano, cioè fino a pochi fino all'altro fa. Ieri, sì, esatto. Questa cosa, la tecnologia, la globalizzazione, l'intelligenza artificiale, il computing, nel futuro ci darà la possibilità di guardare l'umanità in modo diverso. Questo a me interessa, non mi interessa come funzionerà il tornio a sette assi o il robot che ti consegna il pane. A me interessa che l'uomo si guarderà dentro e si accorgerà di aver fatto degli errori nel Novecento, fondamentalmente sulle catene di montaggio, sulla ripetizione di alcuni lavori che hanno imbruttito l'umanità. Questa cosa qua, secondo me, nella quarta rivoluzione industriale sparirà. Magari nasceranno altri problemi che io vedo nel futuro, ma non sono andato così in là, e sicuramente ci saranno come ci sono nati precedentemente, ma non si può non ammettere che la tecnologia è un driver di miglioramento dell'umanità. Massimo è andato. Massimo Temporelli è andato. 4.0, il libro di Massimo Temporelli. E la notizia, io continuo a essere un po' preoccupato per questi robot guerrieri. Sarà che deve uscire l'ultima puntata di Star Wars? Staremo a vedere. Allora, cari ascoltatori, cerchiamo anche un personaggio della settimana. Mi raccomando, non ci distraiamo. Allora, diamo il primo indizio all'800 24 00 24. Si sporca le mani il nostro personaggio, quindi pensate a una notizia degli ultimi 7 giorni e ad un personaggio che si sporca le mani. Logica, spazio, tempo, modul block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, il primo si può fare, da cui partiamo oggi, domenica, è l'approvazione della legge sul whistleblowing, le tutele per chi decide di denunciare sul posto di lavoro anche in forma anonima, anzi soprattutto in forma soprattutto anonima, solo in forma anonima, solo in forma anonima forse. Atti illeciti, possibili corruzioni, ma anche molestie o sospetti, insomma, che quello non in forma anonima, credo che ci poteva fare anche prima, fare anche prima. Adesso ci sono le tutele per queste persone che insomma in qualche modo prima rischiavano, esponendosi, di fare queste denunce, che spesso sono denunce nei confronti anche dei loro capi, e come sapete in un posto di lavoro questa è una situazione piuttosto complicata. Ne parliamo con Francesca Businerola, prima firmataria del DDL sul whistleblowing. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, eravamo già stati sulla notizia quando si parlava di questa legge, che adesso è legge dello Stato. Che cosa prevede esattamente? Quale tipo di tutele per chi fa questo tipo di denunce, onorevole? La prima fra tutte, l'avete già detta, cioè la possibilità di essere, che il proprio nome sia segretato. L'assegnazione nell'ambiente pubblico sarà responsabile del dovere di mantenere segreto il nome del segnalante, e ha altresì sentiamo un po' male, abbiamo un attimo un disturbo forse sulla linea, non so se l'onorevole Businerola si è messa in un punto dove non c'è campo, si è spostata. Pronto ecco, adesso, vabbè, adesso la sentiamo, prego. Eccoci, allora dicevo, la prima tutela è la segretezza del nome. Chi riceve la segnalazione deve mantenere segreto il nome e deve anche portare avanti la segnalazione. Questi nel settore pubblico sono i responsabili di corruzione e trasparenza. Il datore di lavoro non deve discriminare, non deve licenziare, non deve demansionare, questo a pena di sanzione. È stato previsto una sanzione da 5.000 a 30.000 euro. Sanzione c'è anche in capo al responsabile di corruzione e trasparenza che non fa il suo lavoro, cioè non porta avanti la segnalazione. Ma mi scusi, le posso chiedere una cosa? Nel senso che io che denuncio, il mio nome, chi è che lo sa? Lo sa solo il responsabile della corruzione e della trasparenza, anzi può non saperlo se l'amministrazione realizza, come prevede il disegno di legge, un canale informatico che prevede la crittografia, che prevede che la segnalazione sia criptata, quindi verrà individuata tramite un numero o comunque un indice. No, questo è chiaro, ma nel momento in cui ci sarà, immagino, un contenzioso, immagino che il dirigente dica non è vero che io ho fatto questa cosa, chi è che dice che ho fatto, lì come avviene? Lì, a seconda che diciamo il procedimento disciplinare dipende esclusivamente dalla segnalazione, il nome del segnalante può emergere solo dietro sua autorizzazione. Dopo, se si apre per esempio un processo civile, un processo penale, un processo contabile, anche lì il nome viene mantenuto segreto nel penale fino alla fine delle indagini, per esempio. Ma è possibile questo? Nel senso che non c'è un certo punto uno che molto semplicemente dice vabbè, i miei dipendenti sono quattro, mi stanno denunciando per questa cosa. Cioè, voglio semplicemente capire, perché mi sembra fondamentale questa questione della segretezza. Cioè, è veramente, è quello lo scarto, giusto? Quello lì è lo scarto. Infatti abbiamo creato una struttura fatta in modo che il segnalante sia assolutamente tutelato all'interno dell'azienda, non deve emergere il suo nome. Ma se dovesse emergere, le ripeto, ci sono delle sanzioni gravi e pecuniarie. Cioè ci sono da pagare delle multe in capo a quelli che fanno uscire i nomi, e se mai venisse licenziato, come purtroppo è successo fino adesso, c'è il reintegro, ha il diritto al risarcimento del danno, a ricevere i contributi che non ha ricevuto in quel periodo in cui è stato licenziato, e reintegro nel posto di lavoro. Perfetto, assolutamente. Onorevole, che cosa possiamo dire a chi lavora in piccole aziende, perché è stato detto che questa legge speriamo che funzioni bene, soprattutto funzionerà nelle grandi aziende, soprattutto in quelle pubbliche, ma anche in quelle private, dove ci sono queste procedure, dove c'è per esempio un responsabile a cui fare questo tipo di denuncia, ma nelle piccole aziende come può un dipendente fare lo stesso tipo di denuncia anonima? Allora, nelle piccole aziende queste dovranno verificare se possono dotarsi dei modelli di gestione, perché abbiamo previsto e ampliato la normativa su whistleblowing all'azienda agganciandola alla normativa la 231 del 2001, e lì diciamo che ci vuole un certo tipo di gestione. Tuttavia rimangono invariati i canali ordinari, quindi segnalare all'ANAC e alla procura. L'ANAC garantisce un canale di segnalazione, così come la procura. Le aziende piccole, guardi, faccio un esempio molto bello di cui sono venuta a conoscenza e mi hanno coinvolto, si chiama Progetto Cambio Pulito. 20.000 piccole aziende di fornitori e gommisti hanno deciso di mettersi insieme e fare un raccoglitore di segnalazioni anonime, perché hanno un problema grossissimo di traffico illecito di pneumatici che provocano danni ambientali grossissimi. Guardi, in 5 mesi hanno raccolto 220 di segnalazioni, 220 in 5 mesi, e di 220 una sola è stata scartata. Le altre hanno prodotto indagini in procura, hanno prodotto una serie di conseguenze importanti, tra cui anche individuare quali sono i canali attraverso cui arrivano questi pneumatici che creano, ripeto, questo grosso danno ambientale in Italia. Businerallo, io la saluto, la ringrazio, però le voglio chiedere prima di chiudere se come possiamo dirlo in italiano whistleblowing, perché è brutto, lo so, ma perché non c'è una traduzione positiva in italiano, perché sennò sarebbe delatore, spione. Però se non ce lo dice lei, ci lasci con un io uso segnalatore. Usiamo la parola segnale. Proviamo ad usare la parola segnale, il verbo segnale, poi vediamo come va a finire. Grazie. Vabbè. Grazie mille, buona giornata, buona domenica. 800 24 00 24, se volete intervenire anche su questo, cari ascoltatori, oppure se volete individuare un personaggio della settimana che si sporca le mani, oppure se volete raccontarci il calcio dal vostro punto di vista, se siete allenatori o giocatori o dirigenti di calcio giovanile, soprattutto qualunque squadra, calcio dilettantismo, dove si pratica il vero calcio, pensiamo noi, da dove forse si può capire qual è il male del calcio italiano. Oggi è la vostra giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 1, 2, 3, 4. Get up, get up, get up, stay on the scene, get up, like a sex machine, get up. Allora parliamo di ecomostri, di come abbatterli, perché spesso il problema è una questione di soldi. Mancano i soldi, i comuni non hanno mai i soldi per eseguire le sentenze dei tribunali quando ci sono sentenze per abbattere delle costruzioni illegali. Comuni che non hanno i soldi per coprire le buche stradali o per l'assistenza ai disabili, figuriamoci per abbattere gli ecomostri, è naturale, ahimè. Allora ben vengano iniziative di soggetti terzi, altri, privati illuminati, mecenati, che insomma hanno a cuore il loro territorio. Allora ci ha colpito il bando che avviene a Cuneo grazie all'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e con noi il presidente Gian Domenico Genta. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno, e allora, che cosa prevede questo bando, a chi è rivolto, quanto stanziate e perché? Vai. Oh, intanto siamo una provincia bellissima che ha gran parte del proprio territorio classificato UNESCO, e da lì abbiamo pensato che, grazie, siamo fortunati, infatti. Lo chiamiamo sempre momento proloco, questo momento proloco del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Sono cascato anch'io, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Beh, poi voi avete l'UNESCO, quindi a maggior ragione. Abbiamo l'UNESCO, abbiamo i tartufi, abbiamo le montagne, abbiamo tante bellezze che è necessario preservare, e ci siamo accorti che abbiamo un numero importante di, come dite voi, ecomostri, ovvero sia di situazioni che deturpano il paesaggio. Abbiamo pensato, facciamo qualche esempio, no? Le classiche costruzioni mai finite, qualche muri, non so, cascine abbandonate. Di cosa stiamo parlando? Di quale tipo di ecomostri nella vostra provincia? Ma intanto ci sono dei muri che sono all'interno di castelli fatti in cemento armato, delle situazioni che abbiamo, delle chiese che hanno l'asfalto che arriva quasi sul sagrato, abbiamo situazioni particolarissime che noi vogliamo in qualche modo mitigare o demolire. Abbiamo fatto questo progetto, ne sono arrivati 14, si sono candidati, abbiamo contribuito con una risorsa per 150.000 euro, e ne abbiamo scelti 5. Quanto ci vuole per abbattere un ecomostro? Quanto costa? Allora, diciamo intanto questo: gli ecomostri non sono ovviamente quei grandissimi palazzi di cui si parla, perché queste risorse non basterebbero. A ribattere questi ecomostri, ad esempio, uno è già stato abbattuto, ed è un muro che era prospiciente un campo sportivo nel comune di Margarita, e nell'arco di 15 giorni draghe hanno provveduto a togliere tutto questo materiale pericolante, e adesso sta diventando una splendida piazza. E quanto è costato questo intervento? 35.000 euro. Capite? 35.000 euro per un muro. Pensa cosa ci vuole a tirar giù, che ne so, l'ospedale di Aiello, che io conosco bene. Un muro di una certa dimensione. certo. E, complimenti. Insomma, ne avete di lavoro da fare? Quante sono le opere che avete finanziato da abbattere? Ne abbiamo finanziate 5. 5, una come le dicevo nel comune di Margarita, una nel comune di Benevagenna, un comune storico dal punto di vista anche archeologico. Mm-hmm. E qui una curiosità, chi può aderire, chi ha potuto, diciamo, aderire a questi finanziamenti? È un modello che si può estendere? Cioè io sono, ne so, un privato, oppure magari sono un comune, perché queste sono le, diciamo, le possibilità, pubblico o privato, e chiedo una mano per buttar giù l'ecomostro che da solo non ce la farei. È così? Sono ed esclusivamente gli enti pubblici. Ah, quindi era rivolto proprio agli enti. Perché solo agli enti pubblici in particolare? Perché le fondazioni di origine bancaria non danno sostegno economico ai privati, ci devono pensare con le loro risorse. Ma col tartufo che abbiamo visto che quest'anno è a dei prezzi pazzeschi, non si riesce a prendere una piccola percentuale da questi scambi di tartufi per abbattere gli ecomostri? Vedo che intanto c'è una cultura culinaria in questa radio che è notevole. Sono le 9, sono un appassionato di tartufo, ma ho visto che ci sono dei prezzi dove io non posso permettermeli. Siamo in due allora. Va bene, grazie Gian Domenico Genta, presidente della Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo, un bando per abbattere gli ecomostri, fatelo dovunque ce ne sia bisogno, soldi dei privati che ne hanno per questa finalità. Giorgio da Firenze, benvenuto. Giorgio? Buongiorno. Giorgio, vai. Su cosa volevi intervenire, Giorgio? Volevo intervenire sul chi si sporca il personaggio che si sporca le mani. Sì. Chi è? Secondo me è Fassino. Piero Fassino. Perché? Qual è la notizia? Perché chi si inoltra nella galassia della sinistra si pone su la galassia. Si pone sull'orlo di un pozzo pieno di acidi, ma pronto a cadervi dentro e ad esservi sfidato. Oh mamma, pensavo un po' meno grave di così, però in effetti la situazione però è grave. Però con parole straordinarie, chi si pone nella galassia del centro-sinistra. Però non era lui il personaggio che si sporca le mani che cerchiamo, lo cerchiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Zelanda, fabbrica di cioccolato salvata dal crowdfunding in 48 ore. Sono stati raccolti in questo paesino Cadbury, in questa cittadina. La cittadina si chiama Dundin in realtà e la fabbrica si chiama Cadbury. Sono stati raccolti $1,400,000 per salvare questa fabbrica che rischiava di chiudere, una fabbrica di cioccolato. Naturalmente i donatori avranno uno sconto, come prevede il crowdfunding, una ricompensa del 20% sugli acquisti. Una bella favola di questa settimana. Chissà in Italia quante fabbriche ci sarebbero da salvare così. Willy Wonka 2.0. Purtroppo penso di sì, ce ne sarebbe bisogno. Ma la cosa bella è che la titolare, che non si aspettava tutta questa solidarietà, dice: qual è la chiave del successo? Dice: qua c'è un grande senso della comunità e non vogliamo vedere i lavori andare altrove. Quindi i concittadini che si sono stretti intorno a questa fabbrica in Nuova Zelanda, molto bello. Invece una notizia dall'Australia: il 61,6% degli australiani è favorevole. Stiamo parlando del referendum sui matrimoni gay. C'è stato il referendum, sì, signori. È stato un referendum in realtà molto discusso, perché la vera domanda è: ci si chiede se i diritti delle minoranze bisogna far votare le maggioranze, nel senso che la maggior parte delle volte. È andata bene. Era, ricordiamo, un referendum solo consultivo, quindi non, in teoria non, obbligatoriamente non deve portare a niente, ma ovviamente il 61,6% a questo punto, tra l'altro con un'adesione al 79,5%, quindi l'80% degli australiani sono andati a votare. Bella prova degli australiani. Esattamente. Si può dire questo. E ricordiamo anche che in Australia avere rapporti sessuali omosessuali è legale solamente dal 94, quindi non è che uno dice vabbè, ma gli australiani sono avanti, no, era già da tempo che, assolutamente no. E il matrimonio era vietato, era stato proibito nel 2004. Adesso ovviamente l'Australia farà una legge a favore del matrimonio gay. E noi l'abbiamo già fatta. 800 24 00 24. Abbiamo fatto le unioni civili, ma ne parliamo in un altro momento. Un personaggio della settimana, Flavio da Brescia, buongiorno, benvenuto, vai. Buongiorno, per me il personaggio è Albano. Perché? È perché finisce di fare il cantante, si sporca le mani e va a fare il contadino. Fa il vino. Ci sta, però quale sarebbe la notizia della settimana su Alfano? Su Alfano, sì. Che lascia il... Ma è Albano, stiamo parlando di Albano o di Alfano? Sto scherzando. Albano. Sì. Perfetto, qual perfetto. È la notizia su Albano? Ci vuole una notizia, se no non vale. La notizia è che ha dichiarato di non cantare più dal primo di gennaio, se non sbaglio, del 2018. Oh, no, veramente no, che peccato, perché no, l'unica cosa che sa fare Albano bene veramente è cantare. Beh, no, non è vero, lui direbbe anche il vino, anche perché il vino, fa un vino che si trova ormai ovunque. Però non era lui. Non era lui. No. Vabbè, dai, non era male questo però tentativo. Grazie di averci ricordato. Non sapevamo che avesse dato addirittura l'addio alle scene per il proprio vino. Quindi grazie di aver ricordato questa notizia. Guido da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io pensavo che una persona che si sporca le mani potesse essere un cuoco. E che la notizia quindi fosse quella di Carlo Cracco, che ha perso una stella Michelin. Ah, è vero, Carlo Cracco ha perso una stella. Però pare che l'abbia persa solo perché ha cambiato locale, se ho capito bene. Io pensavo perché ne faceva troppe, nel senso che giustamente uno anche che dà le stelle dice: ma come fai se fai 80 programmi televisivi? No, ma chi c'è in locale? Cucina? Chi è che viene a cucinare? Ha cambiato locale, dubbio, quindi non vale più la stella di prima. E quindi, però non era lui, il personaggio. Grazie Guido. Grazie. Grazie a voi. Anche perché poi gli chef di oggi non so quanto si sporchino le mani. Direi che ormai, insomma, fra azoto e occuparsi dell'impiattamento, le mani se le sporcano sempre un po' meno. E allora noi ci sporchiamo le mani con un secondo indizio, invece, sì, che vi andiamo a dare. È silenzioso questo personaggio che si sporca le mani, è anche silenzioso. Qua andiamo un po' a depistare, secondo me, vediamo che succede. Carlos da Roma, intanto, perché oggi vi chiediamo anche di farci da controllori dei fatti, il fact checking sul calcio giovanile italiano. Carlos. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io opero in Roma e dintorni, sì, e non nelle società top, perché ci sono quelle top che fanno dei bei lavori, buoni lavori, sono molto organizzato, lavoro in periferia e che a volte mancano le persone giuste al posto. Scusa Carlos, giusto. Ma tu operi in che senso? Sei un chirurgo? No, opero nel settore didattico, sono insegnante scienze motorie. Sì. E praticamente lavoro sia con il calcio di una prima categoria, che sì, manca la mentalità, lavoro con il calcio giovanile e juniores, e lavoro con bambini di 6 anni a livello di formazione motoria. Cos'è però che non va, cosa vuol dire te? Che manca la mentalità? Esatto. Manca la mentalità, sì, però la mentalità va introdotta quando sono piccoli. E giustamente dopo quell'età evolutiva che questi bambini progrediscono, e giustamente si troveranno già avvantaggiati. Il fatto è che... Ma di che mentalità stiamo parlando? Nel senso, che mentalità devono avere questi ragazzi? La mentalità di voler imparare, di voler divertirsi, di voler giocare e di voler vincere pure, però in forma graduale. Ok Carlo, se invece che mentalità in qualche modo tu ritrovi, una mentalità che mi pare di capire dal tuo punto di vista non sia positiva, non vada bene per lo sviluppo del calcio. È la mentalità di rimanere sempre, di non voler progredire, di sempre rimanere sul posto, sulla zona comfort. Quella che tanto, cioè voler vincere però senza senza impegnarsi, senza, non so, senza sporcarsi senza le mani, mentale, senza l'impegno fisico, tutto quello che comporta una crescita di vita, una crescita sportiva. Ma scusami, come dire, il voler raggiungere il risultato, che immagino, anch'io ho giocato a calcio da ragazzino, anche nel calcio giovanile dilettantistico, voler vincere è sempre la cosa più importante. Questa pressione non porta alla mentalità che dicevi tu, cioè competitiva, di impegnarsi veramente. Come mai questo succede, Carlos? Perché praticamente sempre nel contesto che io mi muovo, sì, alla società, in queste periferie, chiamiamole così, sì, hanno una forma di comportamento di il conformismo, di tanto se mi impegno non è che raggiungo un risultato, se mi impegno tanto... Cioè questa voglia, insomma, di... sperano che i risultati cadano così, dall'alto, non c'è, sì, un reale questo... impegno. Grazie Carlos, grazie. Andiamo con Francesco, cerchiamo di illuminare ancora un po' gli angoli bui del calcio giovanile. Con i nostri controllori dei fatti. Vai Francesco, da Cosenza. Buondì e buona domenica. Buongiorno. Grazie per la trasmissione. No niente, sì, mi interessava molto l'argomento di questa mattina, sì, perché ritengo che, per fare una battuta, l'Italia è una repubblica fondata sul pallone. E questo qua è un aspetto anche sociale, la mancata qualificazione mondiale, come ha detto Buffon, condividi? Sì, sì, sì. Sì. No, non lo sapevo, veramente. Però di quale aspetto ci vuoi? Tu cosa fai nel calcio? Dell'esperta del calcio di provincia, quello che, insomma, l'argomento che è stato affrontato. Ma tu fai un ruolo, hai qualche ruolo, terzino, centravanti? No, io sì, sono un attaccante, no? Sono stato, ho giocato nelle giovanili qui di Cosenza, sì. E oggi? E oggi niente, facciamo un torneo aziendale qui provinciale, mm-hmm, e vi volevo dire che qui, ma penso in tutta Italia, a Cosenza, ci sono tantissimi tornei, ovvero del calcio a 8, over 30, over 35, over 40, e questo secondo me perché c'è uno scarso interesse, perché c'è, ovvero noi che siamo affezionati a questo tipo di sport, e abbiamo notato che percepiamo che non si suda più per la maglia, sembra una frase fatta, però non c'è più il senso di responsabilità, un pochino allo specchio della politica. Non c'è il senso di responsabilità, in che, sì, senso, Francesco? Cerca di essere, ovvero, più preciso. Ovvero, non si deve, cioè, sono, diciamo, 11 giocatori che scendono in campo, c'è chi può scendere per lo stipendio, c'è chi può scendere per l'intervista, c'è chi scende per... Ognuno ha le sue maglia, motivazioni. È la sindrome Ibrahimovic, direi, quella della mancata attaccamento alla maglia. Bravissimo. E questo è un male, questo secondo te è un male. Però Ibrahimovic ci ha costruito una carriera, su questo. Anche se poi con la Svezia è sempre stato molto... Ha delle doti che l'allenatore gli ha dato, e quindi attualmente si può fornire questo tipo di comportamenti. Ora, nel calcio provinciale, cioè l'argomento che affrontate voi, non è secondo me di secondo piano. Basta pensare. Grazie Francesco, però andiamo a sintesi. Lasciaci con una tua pillola di saggezza in un titolo. Qual è il male del calcio italiano, anche a livello giovanile o dilettantesco? Il calcio italiano e il calcio italiano stesso. Va bene, ciao Francesco, grazie. Non abbiamo capito, io ho capito poco da questa telefonata, devo dire la verità. Avevo capito di più dall'altra, quello che parlava della mancanza di impegno reale, dell'anticonformismo, cioè del mettersi in discussione, mettersi alla prova. Cioè, parlava di altri problemi, nel senso che è l'attaccamento alla male, che in realtà si scende in campo quasi sempre con delle motivazioni molto iper personali e invece che di squadra, di gruppo, di pensarla insieme. Quindi pensarla insieme, il gioco di squadra, il gruppo, non bisogna mai dimenticarlo in qualche modo, perché altrimenti viene meno proprio il senso del gioco, e se non c'è il senso del gioco del calcio non c'è il gioco, non c'è niente. 800 24 00 24, proseguiamo con il fact checking degli ascoltatori di Radio 24 sul calcio giovanile, se lo volete, dopo il track. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, allora, l'altro si può fare di questa settimana lo abbiamo voluto celebrare così. Parliamo della crescita del PIL, più 1,8%. All'interno di questa crescita si segnala, si fa notare, diciamo così, la crescita delle esportazioni del settore agroalimentare. Si distingue l'agroalimentare italiano. Altri settori sono comunque in discreta salute, buona salute, ce lo dicono i dati, li ricordiamo giusto per non dimenticarceli: il turismo, la farmaceutica, tra l'altro domani si assegna l'EMA, l'agenzia del farmaco in Europa, la meccanica. Ma noi vogliamo parlare dell'agricoltura, ne parliamo spesso, un settore che va, che funziona, però un settore che a volte trascuriamo anche con le nostre leggi, con c'è tutto un tema di concorrenza, di agricoltori che fanno fatica a trovare il prezzo giusto sul mercato. Però qua abbiamo un bel dato, allora abbiamo convocato il vicepresidente della Coldiretti, Ettore Prandini, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Per intanto, diciamo, illuminarci un po', godiamo anche un po' di questi dati positivi che ce li abbiamo lì, di questo settore agroalimentare. Io mi sono segnato un più 7% di esportazione di formaggi, ma i numeri sono tanti, Prandini. Beh, decisamente, oltre ai formaggi abbiamo il comparto di vinicolo che quest'anno ha assestato un nuovo record per quanto riguarda la crescita. Uh-huh. Il 2015, quindi più 7% anche nel settore vitivinicolo, più 15% per quanto riguarda le nostre bollicine, che sempre di più vengono apprezzate a livello mondiale. Nonostante gli inglesi, nonostante il tema dello zucchero, del prosecco, si ricorda queste polemicucce? Assolutamente sì, queste purtroppo sono le regole che spesso e volentieri, quello che lei diceva giustamente nell'apertura, nonostante alcune difficoltà o incomprensioni anche con le nostre istituzioni, soprattutto a livello europeo, quando spesso volentieri intraprendono dei percorsi a tutela delle produzioni del nord Europa invece che tutelare, diciamo, bene, così, quindi, i prodotti provenienti, ecco, da... Comunque è stato molto bravo a ricordare le bollicine quando mancano 40 giorni a Natale, mi sembra molto giusto. Siamo già tutti lì pronti. È giusto. Io la bottiglia ce l'ho già a casa. Quindi abbiamo... Io no. Abbiamo formaggi, ha detto vitivinicolo, e poi che altro si mette in luce? Beh, anche il comparto ortofrutticolo sta crescendo molto, soprattutto il settore della quarta gamma, che sono, diciamo così, le verdure, quelle già preparate, già in punta. Perché quarta gamma lo chiamate così? Quarta gamma è l'evoluzione, diciamo così, del comparto ortofrutticolo, sì, in quanto non viene venduto il prodotto fine a se stesso, ma viene già lavorato, preparato e lavato. E ovviamente viene più apprezzato soprattutto nei paesi del nord Europa. Sì. L'Italia, sotto questo punto di vista, la fa da padrone, quindi con una crescita significativa per quanto riguarda le esportazioni, nonostante negli anni passati abbiamo perso il mercato russo, che era altrettanto significativo e che stava crescendo a doppia cifra proprio per quanto riguarda il settore russo. E come mai abbiamo perso il mercato russo? Però io le segnalo, Prandini, un attimo, che c'è qualche problema sulla linea, non so se lei si è mosso nel frattempo, se è uscito dalla zona di campo. Io sono fermo. Ecco, sì, prego. Beh, comparto russo, evidentemente il tema dell'embargo si è fatto sentire pesantemente. Ma più da noi piuttosto che per altri paesi? Più da noi che da altri paesi, perché non tanto qua nel comparto ortofrutticolo, scusate, nel comparto legato ai formaggi, ma nel comparto ad esempio ortofrutticolo era uno sbocco importantissimo per le nostre produzioni. Certo. Ok. Senta, ma noi siamo si può fare, quindi va tutto bene, però non siamo mica ciechi, e quindi le chiediamo una criticità, una in questo momento particolare per quanto riguarda il settore agroalimentare, così da denunciare, da sollevare. Beh, una criticità che stiamo attraversando in questo momento riguarda il comparto avicolo, che sta per un'influenza, diciamo così, che non ha nessun tipo di riflesso per quanto riguarda la salute umana, ma che sta fortemente condizionando l'attività. Il ritorno della aviaria, è arrivato a lei, esatto, la notizia che avrei voluto chiederle, in effetti ci eravamo preparati, perché ci sono dei focolai, no? E noi ci siamo informati, Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, se ne è parlato poco a dire la verità, però soprattutto in Veneto sembra che la situazione sia abbastanza grave. Che ci ricorda? Si rischia di avere meno panettoni, perché ho visto che ci sono 100 milioni di uova al mese che mancano. Sì, difatti uno dei comparti che è toccato è proprio quello della produzione delle uova, non perché non ci siano, ma perché ovviamente laddove c'è il focolaio c'è una zona di restrizione, quindi è bloccata tutta la movimentazione dei generi alimentari e delle materie prime, sì. Quindi automaticamente non possiamo commercializzare le uova prodotte in queste zone. Prandini, però ci ricorda, ecco, appunto, ci ricorda che cos'è, sane, che cos'è l'aviaria esattamente, che tipo di virus stiamo parlando e cosa si rischia, se si rischia o se non si rischia niente. Allora, il ceppo di quest'anno è l'H5N8, che sono delle sigle. Per la salute umana non c'è nessun tipo di rischio perché non viene trasmessa all'uomo, però nonostante questo, nel momento in cui ci sono ceppi di influenza aviaria, i servizi veterinari e il sistema di controllo soprattutto del nostro paese interviene tempestivamente con il blocco dell'attività, con l'abbattimento degli animali e quindi non ci sono più uova, certo. Esatto, e in più si aggiungono queste uova al fipronil che ultimamente hanno dimezzato, esagero, ma insomma hanno dato un colpo alla produzione. Beh, diciamo che questo ha toccato principalmente i paesi, in questo caso del nord Europa, come anche devo dire l'influenza aviaria l'abbiamo avuta noi, ma c'è stata anche in tanti altri paesi, e sicuramente le due cose hanno creato le condizioni di avere minor materia prima a disposizione, certo. Quindi minor uova a disposizione. Ma noi siamo sicuri che nei prossimi giorni riusciremo a risolvere anche questo tipo di perfetto. Problema per arrivare ovviamente ad avere i panettoni. Tutte, a disposizione tutte quelle che sono anche dei prodotti agroalimentari che vengono riconosciuti non solo per qualità ma anche per tradizione, in questo caso come i panettoni, a disposizione. Ma allora le chiedo un'altra cosa sulla questione, prima Alessio chiedeva una criticità, siamo molto felici di questo aumento dell'export agroalimentare che porterà 40 miliardi di euro nel 2017, ci sembra che però ci sia ancora un grosso squilibrio fra le quattro regioni, perché in realtà Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte si portano a casa il 60% dell'export italiano e tutto il sud vale il 20% dell'export. Cosa bisogna fare? Strano, perché uno pensa al sud, all'agroalimentare, che esatto, sia forte. Invece, esatto. Bisogna fare in questo caso infrastrutture come hanno fatto altri paesi, ad esempio per quanto riguarda la movimentazione dei generi alimentari, quindi quando si parla ad esempio di alta velocità, l'alta velocità noi non la possiamo concepire purtroppo come oggi noi facciamo solo per il trasporto passeggeri. Se noi fossimo più competitivi nel trasportare velocemente le nostre merci e ad esempio i nostri agrumi dal sud del nostro paese al nord dell'Europa, quello era un mercato che fino a 10 anni fa era tutto italiano, oggi è diventato un mercato che purtroppo vede la Spagna primeggiare nei nostri confronti e quindi giustamente le infrastrutture vanno realizzate. E questa è una bella criticità. Nel momento in cui noi realizziamo le infrastrutture, magari pensiamo a una linea dell'alta velocità, trasporto merci, collegata anche con gli scali ferroviari, potremmo sì gioire dal fatto che l'agroalimentare e le esportazioni crescono, ma potremmo veramente fare ancora molto di più, perché l'agroalimentare italiano viene apprezzato a tal punto che l'Italian Sounding, quindi la falsificazione dei prodotti agroalimentari nel mondo, oggi vale 70 miliardi di euro e sono tutti consumatori che sono assolutamente convinti di comprare generi agroalimentari italiani. E lì dobbiamo intervenire. Esatto, cerchiamo di prenderli noi questi 30 miliardi che ci mancano, visto che i tedeschi sono a 73 miliardi, i francesi a 59 miliardi, noi siamo a 40, siamo felicissimi che siamo in recupero, ma vorremmo vincere. Ci stiamo lavorando, grazie Brandini, grazie. Diciamo che noi potremmo essere a 110. Esatto. Perché quei 70 miliardi potrebbero già essere tutti nostri. Ecco, abbiamo molto da fare. Molto, molto, molto da fare, ma ci risentiamo intorno ai 100, anche prima in realtà, però speriamo che vi diate da fare per recuperarli tutti. Allora, il vicepresidente di Coldiretti, noi però cerchiamo ancora in questa mezz'ora che ci resta di stare insieme con voi, un personaggio della settimana che si sporca le mani e che è silenzioso. E poi vi chiediamo di farci da controllo l'ora dei fatti, ascoltatori, il fatto di oggi è la crisi del calcio italiano, voi che sudate ogni domenica mattina, fate chilometri e poi fate la doccia in questi spogliatoi di lamiera nei campi delle periferie, insomma il calcio giovanile, calcio dilettantistico, non riesco a dirla questa parola, però oggi è il vostro giorno. 800 24 00 24, qual è il male del calcio italiano? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, si può fare nel mondo ancora, torniamo all'estero per un annuncio che insomma ci ha sorpreso, ci ha catturato la nostra attenzione e riguarda i treni ad idrogeno ad impatto zero che sembrano il futuro della Germania, almeno per quanto riguarda in parte una regione, la Bassa Sassonia, che li sta già sperimentando, ma poi soprattutto il traffico dei treni pendolari. E allora abbiamo il piacere di avere con noi niente po' di meno che il direttore vendite per Italia di Alstom, Marco Barale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, la Alstom è una grandissima azienda, una multinazionale impegnata in questo settore. Sì, la sentiamo forte e chiaro, Barale. E, le vogliamo chiedere intanto i contorni di questo annuncio, perché insomma il settore dei treni è affollato, ci sono tanti aspetti. Che tipo di annuncio è arrivato per quanto riguarda la Germania sui treni ad idrogeno? Dunque, Alstom, come lei ha giustamente detto, ha progettato e costruito il primo treno regionale a zero emissioni. Il treno si chiama Coradia E-Link. È alimentato ad idrogeno attraverso un meccanismo di cella combustibile. La cella combustibile fornisce energia elettrica combinando l'idrogeno che è immagazzinato nei serbatoi a bordo del treno con l'ossigeno dell'aria. È a zero coemissioni perché l'unico scarico è costituito da vapore acqueo e acqua di condensa. Perfetto, questo è un primo punto importante, mi scusi se la interrompo, perché in effetti certo. Noi che non siamo giornalisti scientifici, parli come se parlasse alla nonna Pina, vogliamo che tutti capiscano quello di cui sta parlando, però ci siamo informati. In effetti l'idrogeno se lo si può produrre in vari modi, no? Più o meno inquinanti. Voi state cercando di utilizzare, di impiegare un metodo che sia addirittura per niente inquinante. Certo, sì, tutto dipende come è stato prodotto a monte l'idrogeno. L'idrogeno può essere prodotto in maniera assolutamente non inquinante, soprattutto se arriva da fonti di energia rinnovabile. E nel vostro caso questo idrogeno da dove, come sarebbe prodotto? L'idrogeno viene prodotto da energia eolica e quindi totalmente non inquinante. Benissimo, quindi si tratterebbero di... Praticamente questi treni emettono vapore anziché emissioni di qualche tipo. Esatto, emettono vapore bene. D'acqua. Mm-hmm. Ma stiamo parlando solamente di treni che vanno su reti non elettrificate, giusto? Certo, perché su reti elettrificate il problema non si pone. Esatto, no, perché mi scusi, sono io che sono certo, stupido, sì. Nel senso che parlando di treni uno dice ma come mai sostituiscono i treni diesel? Io non pensavo che ci fossero i treni diesel, pensavo che tutti i treni andassero con l'energia elettrica. Invece stiamo parlando dei treni che vanno con il diesel, quindi iperinquinante, che voi invece siete riusciti a fare senza avere i fili, senza avere le reti elettrificate, ad avere dei treni che vanno sui binari ma che vanno a idrogeno. No, giusto? Esattamente, infatti in realtà nel mondo e in Europa e anche in Italia ci sono ancora molte linee che sono non elettrificate. Esatto, ed è bene ricordarlo perché amiamo tutti dimenticarcelo. Mm-hmm. E in Germania, ad esempio, questo è stato uno dei motivi per cui la sperimentazione è partita in Germania, ci sono 20.000 chilometri diretti di ferrovie non elettrificate. Quindi un bel mercato, una bella fetta. Senta, chi ha mosso il primo passo? Voi o sono state le autorità locali che hanno chiesto una produzione e quindi una diciamo distribuzione di treni che fossero a più basso impatto ambientale? Questo è interessante dal punto di vista proprio del territorio, no? della collettività. Chi prende l'iniziativa? Allora, abbiamo iniziato noi, abbiamo cominciato a sviluppare questa tecnologia nel 2012. Dopodiché nel 2014 abbiamo trovato l'appoggio degli stati federali tedeschi, in particolare di quattro stati, sì. Bassa Sassonia, Renania Settentrionale, Austria e Baden-Württemberg, con cui abbiamo firmato una lettera di intenti. Perfetto. Tenga conto che la Germania è molto, i clienti richiedono sempre più soluzioni innovative ed ecologiche e quindi troviamo autorità molto sensibili su questo e disposte anche a contribuire finanziando la ricerca. E qui casca l'asino, perché la domanda chiaramente, voi operate anche in Italia tra l'altro, sorge spontanea. In Italia c'è lo stesso tipo di interesse da parte di chi, dei committenti, cioè delle regioni italiane? Sì. In Italia stiamo trovando interesse, noi stiamo presentando alle istituzioni e alle regioni italiane la nostra soluzione e ci auguriamo di avere presto, come per la Germania, un pool di regioni che siano pronte a sostenere con noi questo progetto. Mm. Chi è che le sembra più in pole position? Sicuramente la Toscana è decisamente una regione che è in pole position ed è molto interessata a questo. Mi fa piacere perché io vengo di là e quindi vedi, una buona notizia che riguarda la Toscana. Sì. Senta, in Italia le auto ad idrogeno, è un po' diverso, ma probabilmente le tecnologie sono simili, possono circolare in realtà, se ci siamo ben informati, da marzo di quest'anno, anche per questioni di sicurezza. Parliamo di una tecnologia che è completamente... sicura, questa di cui che state impiegando voi per esempio per i treni ad idrogeno? La tecnologia, guardi, ci sono decenni di ricerca che sono stati dedicati alla tecnologia dell'idrogeno. La sua sicurezza è stata stabilita in numerose applicazioni. L'Associazione Tedesca dell'Idrogeno valuta che i serbatoi ad alta pressione con idrogeno sono in realtà più sicuri dei serbatoi di benzina in situazioni di pericolo paragonabili. Quindi da questo punto di vista ci sentiamo sicuri. Tanto le diamo una notizia, forse noi a lei, ma credo che probabilmente è superfluo, però se la settimana scorsa, ti ricordi Carlo, abbiamo parlato dell'impiego dei mozziconi di sigarette, è uno studio di una rivista scientifica, se non ricordo male, forse norvegese o britannica, qualcosa del genere, per creare per fare lo stoccaggio dell'idrogeno, serbatoi prodotti anche con questo tipo di materiale, quindi sarebbe poi economia circolare al 100%. Senta, quanto costa l'equivalente insomma di un pieno di idrogeno, il carburante è costoso, costa più o meno guardi, è ancora difficile da valutare perché non c'è ancora un mercato dell'idrogeno ampio come quello della benzina o del gasolio. Quello che c'è di sicuro si può dire è che per le applicazioni ferroviarie si prestano bene, sono ideali per questa tecnologia, perché ci sono quantità di idrogeno che sono elevate, che sono certe e che sono stabili nel lungo periodo, quindi per tutta la durata di vita del treno, quindi sono 25-30 anni. E quindi questo dà certezza a chi fornisce idrogeno di avere un cliente che dà un consumo stabile. Almeno uno, però per fortuna molto grosso. Ma grosso e localizzato. Esatto. Ma secondo lei, se deve fare una previsione, le automobili andranno tutte a idrogeno in un tempo breve? Ah, questo è difficile da dire, questo non glielo so dire. Forse possiamo dire quanto costa oggi un'auto ad idrogeno? Un prezzo medio? No, non lo so, non è il mio mercato. Non è il suo mercato. Vende treni. Se vuoi comprarti un treno, Alessio, puoi avere un preventivo, se no niente. Se credo ti interessa una macchina per 7 persone. In Italia è un mercato ancora molto stretto. Credo che costi più di un'auto elettrica, 50-60 mila euro, probabilmente ancora di più, ma dipende anche, appunto, come diceva lei, Barale, dalla diffusione della tecnologia. Più si diffonderà, più i costi naturalmente scenderanno. Vedremo se il futuro delle auto, ma in questo caso stiamo parlando di treni, è l'idrogeno, treni ad idrogeno di impatto zero in Germania, questa è la notizia, l'annuncio, e l'Italia forse seguirà a ruota, anche se poi sul piano delle energie alternative sappiamo che non seguiamo a ruota, anzi siamo forti anche noi, diciamolo per non tirarci troppo giù il morale. Grazie Barale Alstom per essere stato con noi, buona domenica. Grazie, buona domenica. Ci siamo avventurati in questo si può fare tedesco ad alto tasso tecnologico. Ma insomma, credo che siamo riusciti a spiegare. È molto importante. Abbastanza molto bene. Importante. Torniamo con gli ascoltatori, va, prima di andare sul traffico. Abbiamo forse qualcuno che ci vuole parlare un po' del calcio. Salvatore da Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ho sentito che parlavate del calcio giovanile. Sì. I mali del calcio giovanile, giusto? No, i mali del calcio in generale. Allora, da persone che sono all'interno del calcio, che siano allora, dirigenti, giocatori, prego. Infatti, il calcio giovanile, secondo me, che vive in realtà dove il calcio la fa da padrona, qui a Napoli ormai spopola, le scuole calcio, il calcio giovanile, la vita del calcio giovanile sono i genitori. I genitori che si illudono innanzitutto, e illudono i figli di poter diventare un giorno Maradona, e quindi, restando appresso i figli, li portano a intensificare queste attività anche lasciando la scuola e arrivando poi a una certa età che non hanno naturalmente arte ne parte, arte però ne parte. Bisogna però vedere poi anche le scuole calcio che proposta fanno, che offerta fanno alle famiglie, se per esempio come accade insomma, per quel che sappiamo in Germania per esempio o altrove, dove le scuole calcio ti obbligano ad andare a scuola, perché è importante proprio la crescita del movimento al giorno d'oggi che si porti avanti anche quel tipo di attività lì, quindi poi di conseguenza i genitori si relazionano di conseguenza. Salvatore, ma tu hai un ruolo in particolare? Fai qualcosa, Salvatore? Tu sei un allenatore, sei un figlio che gioca? Io sono vicino a tanti amici che hanno figli che fanno calcio. Vabbè, quindi vedi gli altri e ci hai raccontato anche questo aspetto, i genitori. Beh, questa ce la potevamo aspettare perché è un po', come dire, una cosa che viene fuori, un refrain classico quando si parla di sport e calcio, in particolare i genitori che urlano in tribuna, no? A volte sì, sono la parte peggiore. Ma anche quando si parla di talent in generale, perché spesso sono i genitori la parte più agguerrita e affamata di fama. Andiamo sul traffico, poi torniamo, ascoltatori, e ancora una storia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo Suliman, credo che si pronunci così, che ci chiama da Como. Suliman, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Guarda, io volevo intervenire per il personaggio della settimana, che per me è Totorina, che si è sporcato le mani con vari omicidi e poi che se n'è andato e dunque ha portato dietro un silenzio di tante cose. Beh, uno che sul silenzio in effetti ha costruito una carriera. Un brutto silenzio, insomma, sul fatto che si sia portato sottoterra un sacco di segreti che noi avremmo preferito conoscere per risolvere o tentare di risolvere. Siamo contenti che tu abbia ricordato questa storia anche in questa maniera, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Non ce la siamo sentita, onestamente, di fare come personaggio di Si può fare Totò Riina. No, diciamo che questo era un bel trappolone, però, perché... Sul silenzio ci stava tutta e tu ci sei giustamente caduto, ma le trappole bisogna caderci per poterle superare. Quindi grazie Suliman. Andiamo con Carla da Civitavecchia. Carla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno, prego. Buongiorno. Io ho pensato all'allenatore, al tecnico della squadra svedese, della nazionale svedese. Perché ho visto un'immagine sul giornale di lui che raccoglieva l'immondizia negli spogliatoi dopo che era stata festeggiata la vittoria. Mi è fatta una bella immagine, ho pensato subito a lui. Lunedì sera, dopo la partita, in effetti... Aspettavamo l'applauso. Aspettavamo anche il secondo indizio, però. Vediamo se il secondo indizio riesce ad allinearlo. Perché è silenzioso? È silenzioso, non lo so, perché poi non ho più potuto sentire la radio. Non importa, tu hai indovinato, quindi ti è bastato il primo indizio per indovinare. Esattamente. No, silenzioso perché in conferenza stampa ha chiesto ai giornalisti che facevano un po' di confusione di abbassare la voce. Quindi dimostrando anche qui un tratto della sua personalità particolare di questo allenatore, che quindi... A fine partita, dopo aver vinto le qualificazioni per i mondiali, si ritrova da solo a pulire lo spogliatoio sporcato dai suoi giocatori. Quindi... Anderson. Anderson, sì. Brava Carla, complimenti. Grazie. Ti porti a casa i biglietti per la mostra di Klimt allo splendido MUDEC di Milano. Complimenti. Grazie. Allora, siamo in chiusura su questo urlo musicale e abbiamo ancora spazio per un'altra storia, perché noi abbiamo trovato una imprenditrice italiana proprio nella settimana in cui la Alstom dà la notizia di treni ad impatto zero, quindi che producono praticamente aria pulita a vapore in Germania. Noi abbiamo trovato un'imprenditrice che produce proprio aria pulita, cioè prende l'aria inquinata e te la restituisce. E la purifica. La purifica, così. Lei si chiama Betta Maggio, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Si segnala questa settimana come vincitrice, tra l'altro, del premio Gamma Donna. Qual è l'invenzione, l'impresa per cui è stata premiata? Allora, noi abbiamo creato dei bioreattori, praticamente delle colonnine, delle macchine con dentro dell'acqua dove circola dell'aria, dove all'interno crescono questi batteri non patogeni, non geneticamente modificati, molto naturali. Che creano un concentrato di natura, è come se fossero una grande foresta, però concentrata in una piccola macchina che va ad attirare tutti i contaminanti, arrivano dentro la macchina e vengono digeriti. Quindi, cioè, la notizia... è come avere una piccola foresta all'angolo della strada? Sì, oppure uno stomaco che si digerisce tutte le schifezze che noi praticamente mettiamo nell'ambiente. Beh, l'esempio l'ha fatto lei giustamente di stomaco, e poi dove vanno? E poi dove escono? Che cosa esce da questo stomaco? Beh, la cosa bella è che vengono trasformati in anidride carbonica, in acqua. Ecco. Praticamente i microrganismi nel loro processo fanno... E poi se c'è una base... tipo, che ne so, il ferro, le cose che non si possono digerire, verranno trovate sul fondo della macchina, ma in percentuali piccolissime. Certo. È come se fosse una specie di deposito, insomma, di, esatto. Di scarto prodotto che però... Che poi noi recuperiamo, tra l'altro, perché comunque se è ferro si può recuperare. Assolutamente sì, perché sono tutte basi elementari. Siamo rifiuti zero noi, quindi assolutamente. Qual è l'applicazione concreta di questa tecnologia? Cioè, dove possiamo immaginare di trovare... queste colonnine. Come avete chiamato? Ecco, queste colonnine. Diciamo che... agli svincoli delle tangenziali, dove? Ma allora, noi le abbiamo pensate per il mercato professionale, laddove ci sono veri problemi, tipo nell'industria, nei rifiuti, nei posti dove, perché la macchina è in grado di processare veramente grandissime quantità di inquinanti. Ma quanto è grossa? Ma allora, quella che metteremmo nell'urbano ha un diametro di 1 metro e alta 2,5 metri. Quindi diciamo una bella che come colonnona, se fosse sì. una sorta di albero, certo. Concentrato. Ogni macchina, tra l'altro, corrisponde a 6.000 alberi piantati come efficienza di distruzione di inquinamento, quindi diciamo che un po' di spazio glielo si può fare. Ecco, questo mi interessava, l'equivalente, 6.000, cioè in un tubo di 1 metro di diametro per 2,5 metri ci sta l'equivalente di 6.000 alberi. Non facciamo che questa cosa non sia una giustificazione, che uno mette una bella colonnina e dopo si può prendere il diritto di tagliare 6.000 alberi. No, perché c'è una differenza, gli alberi emettono ossigeno di cui noi abbiamo veramente bisogno. Certo. Il nostro sistema invece viene messo per digerire gli inquinanti extra che vengono prodotti da noi, quindi tutti e due bisogna fare. Piantiamo giustissimo, perché la colonnina non produce ossigeno. Faccio giustamente un'ipotesi così un po' stupida, no? A Milano abbiamo molti problemi di aria inquinata, di smog, lei lo sa benissimo. Esiste un numero sufficiente di queste colonnine che potrebbero essere dislocate ai vari angoli della città, anche a costo di occupare tutto il suolo stradale, per avere un giorno l'aria pulita? Allora, siccome ogni colonnina produce una bolla d'aria intorno a 16-50 metri, poco importa, noi possiamo coprire i parchi dei bambini, le zone dove ci si allena, i parchi cittadini che sono pieni di inquinamento più che le strade, purtroppo, perché le foglie poi rilasciano l'inquinamento che ci si deposita sopra. Quindi noi andiamo a creare delle zone intorno ad ogni colonna, poco importa, non è che bisogna coprire tutta la città, basta coprire le zone dove noi vogliamo andare a respirare. No, però la domanda era quante colonnine sarebbero sufficienti per avere in tutta Milano l'aria pulita. Un sogno. Pensate a sostituire le cose che fanno vedere la pubblicità. Se voi pensate esatto. a sostituire quei palinsesti, non so come si chiamano, che fanno girare la pubblicità con delle colonnine, a questo punto non avremmo più problemi. Ah certo. Quanto costa? È un bel numero, esatto. Quanto costa una colonnina di queste? Cioè, giusto per dare un'idea a sala. Come un'auto elettrica. Sui 20.000 euro di più? No, diciamo di sì. Quanto? Dai, dici. 20.000? Su quella cifra lì. Sui 20.000? Sui 20.000. Sono soldi ben spesi, io adesso credo. Adesso noi ci facciamo un pensiero che magari si può fare, fa un crowdfunding per regalarne una alla città di Milano. Io lo metto sul terrazzo di casa mia. Stiamo trovando un sistema sostenibile per tutti, che dove nessuno tira fuori i soldi e tutti spendono quelli che spendono già. Perfetto. Ne sapete, perché non appena lo faremo ve lo diremo per sì, primi. Sì, ditecelo per primi, che noi diamo volentierissimo la notizia. Grazie mille. Grazie Betta Maggio, grazie. Abbiamo forse 30 secondi con un titolo, un ascoltatore, Patrizio da Cremona, giusto il titolo, vai Patrizio. Ciao, secondo me uno dei problemi del calcio dilettanti e giovanile è la preparazione dei tecnici che vanno a prendere in mano poi i bambini, i ragazzini. Allenatori perché... impreparati, tu hai esperienza diretta? Io ho esperienza diretta, ho giocato a calcio per 30 anni, ho fatto il corso allenatori l'anno scorso, è un corso molto basico ma che ti dà almeno un'infarinatura di preparazione atletica, preparatori di preparatori. Patrizio, hai ragione, cioè partiamo da chi prepara quelli che poi preparano, vabbè, abbiamo capito, grazie, buona domenica a tutti. Grazie. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli oggi in assistenza in diretta, Carmelo Lauricella in regia, noi ci risentiamo sabato prossimo con Si può fare, ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini, buona domenica.